Falco e il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. La storia di oggi viaggia sulla colonna sonora di un genere musicale particolare, un genere musicale che non va in classifica. Forse si rivolge a una nicchia di elite più colta, ma comunque una musica che ha sempre segnato anche la storia dell'evoluzione di un paese e di un pubblico. È un genere che permette di dare libero sfogo alla propria creatività, che ti dà il permesso di trasformare melodie e armonie ogni volta che suoni. Il genere che definiamo con una definizione molto ampia jazz. Time is right. Living. And tonight, tonight. Living. I'll read, all right. Come on. Anche in Italia c'è una storia illustre di grandi jazzisti che magari non vedrete in televisione il sabato sera, magari non hanno scritto delle hit che piacciono alle ragazzine, però fanno parte della nostra cultura. E ce n'è uno di cui stiamo per parlare. Un personaggio con una storia molto strana, forse alcuni di voi lo ricorderanno come l'uomo in ammollo nella pubblicità di un noto detersivo, ma gli esperti lo conoscono come uno dei più grandi jazzisti italiani, Franco Cerri, che ha 89 anni e suona ancora. Oh mia bella Madonnina, che te brille te lontan. Beh, naturalmente questa non è una canzone jazz, ma ci serve per introdurci nell'ambiente nel quale ci muoveremo. E quindi, come avrete intuito, la nostra storia parte da Milano, la Milano della Madonnina, ma anche dell'Expo che inizia tra qualche mese. È la città che viene considerata la più internazionale tra le città italiane, perché è il centro della moda, ma anche della pubblicità e della musica. Pubblicità e musica, un binomio del quale parleremo. Perché a Milano, per quanto riguarda la musica, sono nate le grandi case discografiche, le edizioni a cui erano legati gli autori che hanno fatto grande la musica italiana, maestri che con i loro spartiti musicali scrivevano musica a una velocità pazzesca, come Gorny Kramer, autore di grandi successi e che in qualche modo è strettamente legato anche alla storia di oggi. Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché? Il nostro viaggio inizia nel 1940, quando Franco Cerri ha 14 anni, perché è nato nel 1926. A quei tempi si inizia a lavorare presto e soprattutto se non vivi in una famiglia benestante, se non hai tanti soldi, soldi, soldi, come cantava la canzone precedente, non puoi permetterti neanche di continuare gli studi. Con 5 lire si campa una settimana e tutti i componenti della famiglia devono contribuire appena possibile al bilancio familiare. Così Franco inizia a fare il muratore. È alto, magro magro, dinoccolato, talvolta si ritrova a sollevare sacchi di cemento che pesano più di lui. Ma per fare il muratore devi stare all'aperto e a Milano in inverno fa freddo. Così mentre l'Italia si prepara alla guerra, Franco Cerri inizia un nuovo lavoro, questa volta al caldo, alla Montecatini, dove fa l'ascensorista. In America lo chiamerebbero il lift boy, il ragazzo che manovra dall'interno l'ascensore. Ma si sa, negli anni del fascismo in Italia sono vietate tutte le parole in lingua inglese e quindi ascensorista. Ma Franco è contento perché almeno lavora al caldo, viene promosso, diventa fattorino e ricevendo come aumento quelle 5 lire che in casa fanno la differenza. Franco è volonteroso, evidentemente si merita una ricompensa e a 17 anni accade il fatto che cambia tutta la sua vita. Ho chiesto per un periodo a casa che bello sarebbe la chitarra, io avevo 17 anni e mezzo. E papà diceva, ma no, beh, dopo un mese pianti lì, eh? Finché una volta è tornato a casa con questa chitarra e mi ha detto, volevi la chitarra, adesso suonala, così come si dice in generale, volevi la bicicletta, adesso pedala. E io non sapevo cosa fare, ho preso un metodino dove c'erano tutte le corde vuote, accordi vuote, un po' facile. Poi però ho incontrato Giampiero Boneschi, è stato mio compagno di scuola, e ci siamo reincontrati e lui studiava il pianoforte, io ho detto la chitarra, allora abbiamo cominciato a vederci a casa sua. Poi io a casa mia, da autodidatta appunto, cercavo sulla tastiera delle note che fossero gradevoli alle mie orecchie e poi telefonavo a Giampiero Boneschi, che cosa significano queste tre note? E allora lui mi diceva, le provava sul pianoforte, dovrebbe essere un re minore. E noi da lì piano piano cercavo poi di accumulare esperienze. Quindi Franco inizia da solo a strimpellare, cerca le note dando una sequenza che abbia un senso, perché non ha studiato la musica, non le conosce le note, ma ha un vantaggio che per chi fa musica è importantissimo: ha l'orecchio musicale che gli permette di memorizzare i suoni di una canzone e di riprodurli sulle corde. Poi c'è Giampiero Boneschi, il suo amico Peo, che diventerà anche lui un musicista e compositore per la TV, dalla sigla di Lascia o raddoppia più recentemente fino a Scherzi a parte. Giampiero possiede un giradischi con il quale fa ascoltare a Franco i dischi dei grandi jazzisti come Benny Goodman, Duke Ellington, Count Basie. Franco ascolta, impara, ma non immagina che con molti di quei musicisti un giorno si troverà a suonare. Durante il fascismo, lo sappiamo, ci sono molte restrizioni, tra queste anche la musica jazz, dal momento che è vietato suonare le canzoni americane nei locali e le orchestre che sfidano questo divieto si trovavano spesso nei guai. In realtà allo stesso Mussolini piace il jazz, passione che ha anche trasmesso a Romano, al suo figlio che diventò un grandissimo jazzista, e si racconta che Mussolini ascoltasse il figlio che suonava il pianoforte. Probabilmente Radio Tevere, che trasmette clandestinamente da Milano il jazz, gode del segreto appoggio del Duce, e Radio Tevere programma tutti i più importanti successi dell'epoca. Ma l'8 settembre del 43 la storia cambia, arriva l'armistizio e la guerra finisce, o comunque ne comincia un'altra. Ma intanto con essa terminano anche le restrizioni e le tante orchestre jazz possono finalmente suonare il loro repertorio liberamente. Anzi, è bene accetto tutto quello che sta arrivando dall'America, dal paese, diciamo, liberatore. La gente torna a uscire la sera, ha voglia di divertirsi, di dimenticare gli orrori della guerra. Le orchestre lavorano molto e di conseguenza trovare un posto come chitarrista non è così difficile, anche se non sei proprio bravissimo. Una di queste orchestre è quella di Gorny Kramer, e un giorno Kramer ascolta Franco Cerri mentre suona con alcuni amici. Un mese dopo si ricorda di quel ragazzino che suonava a orecchio, o come dice lui, quel ragazzino che ha la paletta. Dunque, c'è in Galleria del Corso, si riunivano i musicisti che facevano jazz o musica leggera, e io andavo sempre lì e sapevo che Kramer aveva un ufficio, aveva una sede sua, e lo vedo in Galleria del Corso e mi dico, Madonna mia, non so se farmi vedere o cosa, ma è lui che si accorge di me e mi dice, ciao, tu sei quel ragazzino che è venuto quel giorno, però mi deve scusare perché io non so niente. No, tu hai la paletta, devi venire subito con noi, c'è il quartetto Cetra, Natalino Otto. E io dico, ma questo è matto. Perché ci vuole orecchio, ci vuole tutto il pacco. Franco Cerri alla paletta, che nel gergo di Kramer vuol dire avere orecchio. Kramer, il fisarmonicista che con la sua orchestra rappresenta un mito per tutti i musicisti dell'epoca, prende sotto la sua ala protettiva questo 19enne spilungone che con la sua chitarra riesce a fare ottime cose anche se non ha mai studiato le note del pentagramma. E il maestro mette alla prova il suo allievo interrogandolo a bruciapelo sulle note e sugli accordi. Cerri, che accordo è questo? Oppure durante le serate lo disorienta con improvvisi cambi di tonalità o di tempo che solo un chitarrista con la paletta riesce a risolvere, come quando c'è da registrare La scuola degli asini di Natalino Otto. Stavamo registrando alla Phonit, tra l'altro io ero su un legno, appena mi muovevo un attimo si sentiva cric crac, per cui Kramer mi ha detto: non ti devi muovere, quando hai finito il primo refrain metti giù la chitarra e vai vicino a Natalino che avrà un qualcosa da dirti. Allora sono andato là vicino a Natalino, che ha cominciato a dire: gentili signore e signori, vi presentiamo la classe degli asini, di cui fa parte l'orchestra Kramer con i suoi solisti. Cominciamo con l'interrogare il più intelligente. Tu, Franco Cerri, sai dirmi dove si trovano i Pirenei? I Pirenei si trovano e si cercano, ma se non si cercano, no. Al cortile che confina con l'università salta fuori una gallina che una domanda fa. Corro, cocco, consentiamo un po'. Professore, per favore, mi vuol dire se è nato prima l'uovo oppure la gallina? Che figura, il professore non lo sa. Falco e il Gabbiano. Quindi il musicista autodidatta Franco Cerri inizia a suonare con le orchestre. Pur non conoscendo la musica, fa tanta palestra che lo aiuta a imparare a avere dimestichezza con la musica e con la musica d'assieme. Ma ci vuole orecchio e Franco Cerri ce l'ha. Impara tantissimo da Kramer e qualche anno dopo, nel 1978, in una trasmissione televisiva dal titolo K2, Cerri presenta così il suo maestro. Quante lune! Solitamente il maestro presenta un allievo. Questa volta invece abbiamo voluto un po' rovesciare la situazione ed è l'allievo, almeno l'ex allievo, che vorrebbe parlare un po' del maestro, di questo maestro. Gorni Kramer ha rappresentato per me veramente la formazione sia jazzistica che musicale in generale, e non solo io. L'Italia è piena di gente, di simbolici figli musicali di Gorni Kramer. Che carino che sei. Ma la musica è fatta di incontri e uno di questi influenza profondamente Franco Cerri. Nel 1949, infatti, Cerri ha l'occasione di suonare per 2 settimane di fila alla Storia, che è un noto nightclub milanese a 2 passi dal Duomo, con un violinista francese, Stéphane Grappelli, e con un chitarrista belga di origine gitana dalla vita avventurosa, Django Reinhardt. Come ti chiami? Django. Sai come si scrive? D-J-A-N-G-O. La T è muta. Django Reinhardt è un chitarrista incredibile. Abbiamo detto che è un gitano e per tutta la vita vive in una roulotte itinerante. A 18 anni, a seguito di un incendio scoppiato nella roulotte in cui vive, subisce una menomazione alla mano sinistra, con l'anulare e il mignolo che per le ustioni si uniscono. E stiamo parlando di un chitarrista. Questa deformazione trasforma lo stile di Django e lo rende talmente particolare da diventare unico. Infatti, riesce a suonare la chitarra con 2 sole dita, l'indice e il medio. E lo stesso Franco Cerri rimane senza parole nel vedere la velocità con cui quelle 2 dita si spostano sulla chitarra. In 2 settimane ha modo di conoscere bene il suo collega e rimane folgorato dalla sua bravura, ma anche lui, come Franco Cerri, le note non le sapeva leggere. Quando ci siamo trovati per fare le prove alla Storia, io gli dicevo: ah, mio amico Giampiero Boneschi ha questo disco vostro, che ero. Allora siamo andati avanti a suonarlo e poi alla fine lui mi ha chiesto in che tonalità, da che tonalità tu giue, e io dici do, in do, e fa, ah, è quello lì do. The sky is clearing and the night is bright. The sun. Carry On, dice la canzone che abbiamo appena ascoltato, vai avanti. E Franco Cerri continua ad andare avanti nella sua carriera, incontrando grandi musicisti con cui condivide il palco. Suonano nei locali, talvolta non si portano dietro le loro band, ma suonano con musicisti del posto. Franco Cerri così condivide il palco, uno dopo l'altro, con i migliori jazzisti dell'epoca. Siamo molto contenti di averti qui con noi. We are very glad to have you as a guest in our show. Yeah, and I'm happy to be here too. Thank you. Very much. Cosa canta? What do you sing? Bello grasso, bello grasso. Grassa e bello? Yeah, okay. Ma chi è il compositore? Who is the composer? Well, listen, I know that probably... Questo è Louis Armstrong, che scherza con Gorny Kramer in uno show italiano. D'altra parte non è un caso che in Francia suonare si dica jouer e in Inghilterra play, cioè giocare e suonare per molte lingue sono considerati sinonimi. È solo una delle apparizioni dei grandi della musica americana che vengono in Italia e condividono il palco, appunto, for playing, per suonare e divertirsi anche con Franco Cerri. Oltre a Armstrong, Franco suona con Duke Ellington, Chet Baker, Dizzy Gillespie. Insomma, non si fa mancare niente, ogni esibizione, ogni duetto è un'occasione in più per affinare la tecnica dell'improvvisazione, che ormai è diventata la sua caratteristica principale. Tipica dei grandi jazzisti nel suo libro autobiografico dal titolo Sarò Franco. E si legge così. Sono anni che vivo di improvvisazione, sia nella musica che fuori. A volte mi capita di improvvisare la mia stessa firma. Non ne faccio mai una uguale all'altra. Nel 1950 c'è una svolta alla carriera di Franco Cerri. Dopo aver passato tanti anni a osservare gli altri musicisti, a imparare da loro e accompagnarli nelle serate, Franco decide che è il momento di cambiare marcia, di vincere quella paura che da sempre lo accompagna, la paura di non essere all'altezza, di non farcela, di non piacere al pubblico, l'ansia da prestazione. Arriva il momento di mettersi a suonare come solista e quindi fonda il Franco Cerri Quintet, con il quale inizia a incidere i primi dischi. È il periodo in cui Franco Cerri duetta e suona praticamente con tutti i più grandi musicisti jazz e la sua vita si arricchisce di aneddoti da raccontare, come quando impara a suonare il contrabbasso, rigorosamente da autodidatta, per suonare assieme a Jerry Mulligan o a Chet Baker o a Billie Holiday. Poi mi chiamavano in Europa non solo con la chitarra ma anche per il basso e mi dicevo ma questi sono matti, conoscevo dei bassisti straordinari ma preferivano me, ecco, mi lasci dire questa cosa, io non le dico mai queste cose su di me, ma non mi svegliavo la notte, mi dicevo ma no, è impossibile, ecco, proprio tipico di uno che si fa da solo. La vita di Franco Cerri è la vita di tanti musicisti che nella loro carriera hanno la fortuna di incontrare altri grandi musicisti in una specie di mutuo scambio di talento. Colpi d'ala, ma dobbiamo ancora raccontare altri incontri importanti di Franco Cerri. Restate su Radio 24, torniamo tra poco. Falco e il Gabbiano. Ho oggi la puntata del Falco e il Gabbiano è dedicata al jazz. Anzi, è dedicata a uno dei più grandi jazzisti italiani, Franco Cerri. Dopo aver imparato a suonare la chitarra da autodidatta, dopo essere entrato nell'orchestra di Gorny Kramer e poi via in un susseguirsi di duetti con i più grandi, Armstrong, Django Reinhardt, Duke Ellington, con una lista ancora lunga, Franco Cerri è ancora lì con la sua fedele Gibson L5. Da un colpo d'ala alla paura di non farcela, di non essere mai all'altezza solo perché non ha studiato la musica. Vince la sua soggezione. Ma quando uno la musica ce l'ha nel sangue e ogni nota suonata alla chitarra sembra andare a braccetto con il battito del cuore, allora l'avere studiato o no non conta più. Contano le emozioni che riesci a fare provare al tuo pubblico. Il mondo del jazz è anche un mondo maledetto, pieno di gente che vive di notte, spesso tra alcol e droga. La droga è sicuramente una strada che molti jazzisti percorrono, forse portati a trovare una soluzione a conflitti interiori e solitudine, che neanche con la musica riescono a combattere, come Chet Baker, che inizia a drogarsi proprio perché lo vede fare a Charlie Parker, che lui considera il più grande di tutti. Dunque lui ha fatto un anno di prigione, poi è stato, mi ha telefonato qualche volta parlando in italiano, e quell'anno che ha passato in prigione lo ha obbligato a parlare all'italiano. Quando è uscito abbiamo cominciato a suonare ancora insieme, e a un certo punto io gli ho chiesto: come sei finito a prendere queste cose? E lui ha detto: Charlie Parker, perché Charlie Parker la prendeva questa cosa, e siccome Charlie Parker per me era Dio, ho cominciato a farlo a mia volta, e è andata a finire così. Ecco, senza mai pronunciare la parola droga, come per pudore, forse gli fa paura, perché Franco Cerri è un uomo tranquillo, è sempre sorridente, educato, mite, gentile. Non sembra neanche un jazzista, verrebbe da dire, eppure lo è, è anche uno di quelli bravi. Intanto siamo arrivati alla fine degli anni 50, Franco inizia a fare televisione, la Rai dà spazio alla musica jazz e lo chiama a condurre alcuni programmi che, con ospiti e tanta tanta musica, portano il jazz nelle case degli italiani e fanno conoscere questo genere musicale. I titoli delle trasmissioni sono Di Jazz in Jazz, Jazz Primo Amore, e poi una trasmissione che comunque col jazz confina molto è Il Musichiere. My funny valentine, sweet comic valentine, you make me smile with my heart. Your looks so laughable, unphotographable, but you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? Don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Siamo arrivati agli anni 60. Il pubblico della televisione cambia, cresce e diventa anche più esigente. Anche la musica cambia, ma il jazz sembra non risentire troppo di questo cambiamento. Franco Cerri continua a essere ospite gradito in tante trasmissioni. Ovviamente la musica la fa da padrona, ma di Franco piace molto anche quel suo essere sempre sorridente, quella voglia di scherzare, di far ridere, anche se oggi magari le sue freddure sarebbero un po' fuori moda. Paola, hai sentito che bravissima? Bravissima. Poi con l'atmosfera giusta. Come nei film, americani, quando c'è lui a cavallo e va verso una strada che conduce a un orizzonte di fuoco. Rosso di sera. Rosso di sera del tempo al sud e sulle isole. Moglie e buoi? dei Paesi Bassi. Chi fa da sé? È un egoista. Chi la fa? La Spettini. Canche Abbaia. Canche Abbaia. Canche Abbaia non morde in jazz quartet. Ride bene. Chi soffre il solletico. Chi tardi arriva? Maleducato. Chi vive sperando? Muore. Beh, certo, questa televisione è molto diversa da quella di oggi, altri tempi comici, altri ritmi, è una televisione sussurrata, senza eccessi, senza litigate e esagerazioni, aggiungerei anche senza concorrenza, e forse per questo Franco Cerri ci si trova a proprio agio. Ogni sua trasmissione raggiunge un livello di qualità sempre più alto. Franco ormai è diventato molto popolare, però è conosciuto solo per la sua musica. Non ha mai fatto, per esempio, l'attore, o come invece è capitato ad alcuni suoi colleghi, non ha mai fatto, anzi, non ha ancora fatto la pubblicità. Contro acidità, bruciori, pesantezza di stomaco, digestivo Antonetto. Ah, Antonetto. È un delizioso farmaco dal dolce sapore di frutta. Falco, basta la parola, non ci sono dubbi, eh? Cinar, l'aperitivo a base di carciofo. Bevete anche voi Cinar, e bevetelo così, 40 grammi di Cinar, una buccia di arancia o di limone e una spruzzata di Fels ben ghiacciato. Ecco il vostro Cinar, contro il logorio della vita moderna. Siamo nel 1968, un'agenzia di pubblicità contatta Franco Cerri per fargli scrivere la musica per la nuova pubblicità di un detersivo. È l'epoca di Carosello, quindi le pubblicità sono delle piccole scenette che durano almeno 2 minuti, al termine delle quali viene presentato il prodotto. Al momento di parlare con l'agenzia, a Cerri viene chiesto se è interessato a recitare lui stesso nel Carosello, da protagonista. Nasce così L'uomo in ammollo, la famosa pubblicità in cui si vede Franco Cerri all'interno di una vasca di vetro piena d'acqua, mentre mostra le macchie sui vestiti che indossa e rovescia il detersivo per poi uscire dalla vasca completamente pulito. Beh, in realtà sotto i vestiti indossa una muta da sub e nella finzione del set il detersivo viene sostituito da polvere di marmo. Sporco impossibile, unto di cucina. Sporco sulla federa, unto di pelle qui sulla camicia. Ma l'unto è impossibile. No, non esiste sporco impossibile per Biopresto bucato a mano. Biopresto bucato a mano liquida anche l'unto, perché Biopresto scioglie lo sporco impossibile che di solito non viene via. Visto che è pulito, e per Biopresto bucato a mano niente più sporco impossibile né su asciugatoi da cucina, né sulle camicie, né sulle federe. La campagna ha un successo strepitoso e il tormentone dell'uomo in ammollo andrà avanti per 15 anni. Tempi esagerati se si confrontano le pubblicità dei giorni nostri, dove un testimonial dura al massimo qualche mese. Franco Cerri acquisisce una popolarità presso il grande pubblico che prima non aveva. Tutti lo riconoscono per strada, lo fermano, gli chiedono l'autografo, qualcuno ridacchia prendendolo in giro da lontano, e lui, che ha sempre vissuto una vita tranquilla pur avendo conosciuto i più grandi musicisti del mondo, non è più così convinto che sia stata una buona idea accettare di partecipare a quel carosello e diventare l'uomo in ammollo. No, io non amo parlare di questa cosa. Mi conoscevano tutti. Sono stato 3 anni senza prendere il metro, perché appena mi vedevano, quello lì e quello là, e io che sono un timido, non ce la facevo. Allora ho preso il taxi per 3 anni e poi mi sono detto, ma che cretino che sono, spendo tutti questi soldi, ma se hanno voglia di ridere che ridano. È da notare che per uno scherzo del destino il figlio Nicola lavora in pubblicità. Almost blue, almost doing things we used to do. There's a girl here and she's almost you, almost. That you promised with your eyes, I see in hers too. Now you. Continuiamo col nostro racconto, perché non dimentichiamo che Franco Cerri ha appena festeggiato il suo 89esimo compleanno e quindi raccontare la sua storia significa attraversare un gran bel pezzo di storia recente. Siamo arrivati agli anni 80 e Franco Cerri ha passato i 50 anni, è tempo di bilanci. Guardandosi indietro, Franco si accorge di averne passate veramente tante. Incontri incredibili con i grandi della musica, gioie, delusioni, storie di una vita da autodidatta, in cui ha raggiunto grandi obiettivi solo con le proprie forze. Adesso il modo migliore per mettere a frutto tutte le esperienze che ha vissuto è trovare un modo per insegnare agli altri quello che sa, fare crescere nuovi talenti. Vi inviterei a fare un applauso a Enrico Issa perché vi ha aspettato. Noi due risparmiamo sulla badante perché vado a lui. Nel 1980 stringe un sodalizio artistico con Enrico Intra, che è un pianista che come lui ha suonato con i più grandi. I due non sono più dei ragazzini, però hanno due caratteri simili che si incontrano e trovano un perfetto accordo stilistico e musicale. Hanno entrambi quest'idea forte di dover fare qualcosa per insegnare la musica di cui si sono nutriti per una vita. E così nel 1982 per la Fabri Editore esce il corso di chitarra in 60 lezioni. E scommetto che molti di coloro che oggi ci stanno ascoltando hanno almeno provato a imparare la chitarra leggendo i fascicoli di Franco Cerri. Ma non basta. Certo, i fascicoli in edicola sono una gran cosa, avranno ben 5 ristampe, però bisogna fare di più. E sempre con l'amico Enrico Intra, Franco Cerri fonda nel 1987 i Civici Corsi di Jazz, grazie ai quali ha formato nuovi talenti e musicisti. Lo abbiamo intervistato proprio a scuola, dove riveste la carica di presidente onorario. Io l'ho fondata perché in comune mi hanno chiesto se avevano sentito che avevamo voglia di fare questa scuola e hanno chiamato me perché mi conoscevano di più e io ho firmato e poi dopo ho chiamato Enrico, ho chiamato tanti musicisti che sapevo all'altezza che potessero insegnare. È bello sentire che un maestro della musica, una persona che ha suonato con i migliori musicisti del mondo, che ha attraversato 70 anni di vita partendo come autodidatta, oggi a 89 anni abbia ancora voglia di insistere sull'importanza dell'insegnamento della musica. È una materia purtroppo che sembra ormai scomparsa dalle scuole italiane, allora meno male che c'è gente come Franco Cerri. Ci sono tante storie che dobbiamo ancora raccontare. Aspettiamo i vostri commenti, i vostri suggerimenti e le vostre segnalazioni. La mail è ilfalcoilgabbiano@radio24.it, ma potete scriverci, scrivermi, Facebook, Twitter, insomma, se volete, sapete dove trovarmi. A domani. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. As time goes by. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti.